Sei, la realtà capovolta. Le tragedie che compongono la trilogia greca dell'Orestea sono tra le più conosciute e rappresentate. In questo classico, il dio Apollo, durante il processo di Oreste per l'uccisione di sua madre, spiega che i figli non sono imparentati con le proprie madri. Non la madre è generatrice di quello che ha chiamato suo figlio, afferma il dio. Ella è soltanto la nutrice del germe in lei seminato. E ti mostrerò la prova di questo argomento, prosegue il dio Apollo. Può esistere un padre anche senza madre. È presente dinanzi a te, come testimone, la figlia di Zeus Olimpio, neppur nutrita in tenebre di ventre, ma germoglio quale nessuna dea può generare. A questo punto la dea Atena, che secondo l'antica religione greca nacque già completamente formata dalla testa del padre Zeus, entra in scena e conferma l'affermazione di Apollo. Solo i padri sono genitori dei loro figli. Madre non esiste che mi abbia generata, afferma, e aggiunge, e tutto ciò che è maschio, tranne le nozze, io approvo di tutto cuore. Certo, io sono per il padre. E così, quando il coro, le Eumenidi o Furie che rappresentano l'antico ordine femminino esclama con orrore: Ahi, dei nuovi, le leggi antiche calpestaste, mi strappaste dalle mani. Atena, la dea, dà il suo voto decisivo. Oreste viene assolto da ogni colpa per l'omicidio della madre. Ci si potrebbe chiedere perché qualcuno dovrebbe cercare di negare il più potente e ovvio legame di parentela umano. Perché viene dichiarato che il matricidio non è un delitto nell'Orestea di Eschilo? Perché un brillante drammaturgo come lui dovrebbe scrivere una trilogia drammatica su questo argomento? E come mai questa trilogia, che a quei tempi non era teatro come noi l'intendiamo, ma piuttosto un dramma rituale specificamente studiato per fare appello alle emozioni e ottenere obbedienza alle norme dominanti, veniva rappresentata per tutto il popolo di Atene, comprese le donne e gli schiavi, in importanti occasioni cerimoniali? Dobbiamo ricordare che nell'antica Grecia il teatro era la scuola dei poveri. Solo i ricchi andavano a scuola, al ginnasio. I poveri andavano a teatro e lì imparavano cosa era giusto e cosa era sbagliato. La tipica interpretazione degli studiosi che cercavano di rispondere all'interrogativo di quale fosse la funzione normativa dell'Orestea era che la tragedia servisse a spiegare le origini dell'areopago greco, cioè il tribunale per gli omicidi. Probabilmente in questo tribunale, nuovo per il suo tempo, si otteneva giustizia mediante i più impersonali strumenti legali dello Stato anziché tramite la vendetta di clan. Ma come fa notare la sociologa inglese John Rockwell, questa interpretazione è completamente priva di senso. Essa non sfiora neanche la domanda essenziale: perché questo caso, che si vuole sia stato il primo omicidio mai giudicato da un tribunale greco, sia l'omicidio di una madre da parte del suo stesso figlio? Né si pone la domanda basilare di come mai, in quella che dovrebbe essere una lezione morale per sostenere la giustizia amministrata dallo Stato, un figlio potesse essere assolto dall'omicidio per vendetta premeditato a sangue freddo della madre, per di più adducendo l'argomento manifestamente assurdo che tra loro non intercorrevano rapporti di parentela. Per capire quali norme l'Orestea esprima e affermi in realtà, dobbiamo considerare la trilogia nel suo complesso. Nella prima tragedia, l'Agamennone, la regina Clitemnestra fa in modo di vendicare lo spargimento del sangue di sua figlia. Veniamo a sapere che mentre si recava a Troia, suo marito Agamennone la ingannò facendosi raggiungere dalla loro figlia Ifigenia, apparentemente per darla in sposa ad Achille, in realtà per sacrificarla e procurare un vento propizio alla flotta restata in panne. Al ritorno di Agamennone dalla guerra di Troia, mentre il marito sta facendo il bagno rituale per purificarsi dai peccati commessi in guerra, Clitennestra gli getta addosso una rete per immobilizzarlo e lo pugnala a morte. Ella fa chiaramente intendere che il suo gesto non è motivato da un dolore o da un astio personale, ma dal proprio ruolo sociale di capoclan, che deve vendicare lo spargimento del sangue di un congiunto, in questo caso sua figlia. In breve, ella si comporta secondo le regole di una società matrilineare in cui, come regina, ha il dovere di badare all'amministrazione della giustizia. Nella seconda tragedia, Le coefore, il figlio di Clitennestra, Oreste, ritorna ad Argo sotto mentite spoglie, entra nel palazzo della madre come ospite, ammazza il nuovo marito di sua madre, Egisto, e dopo qualche esitazione uccide la madre per vendicare l'omicidio che lei stessa ha commesso di suo padre. Agamennone. La terza tragedia, Leumenidi, descrive il processo di Oreste nel santuario di Apollo a Delfi. Apprendiamo che Leumenidi, in quanto rappresentanti dell'antico ordinamento, protettrici della società ed esecutrici della giustizia, stavano perseguitando Oreste. Una giuria di 12 ateniesi, presieduta dalla dea Atena, doveva decidere la sua assoluzione o la sua morte. Ma siccome il loro voto è in assoluta parità, quello decisivo spetta ad Atena. Oreste viene assolto perché non ha versato sangue di consanguinei. L'Orestea ci riporta all'epoca in cui si verificò quello che studiosi classici definiscono uno scontro tra culture patriarcali e matriarcali. Nei nostri termini, essa descrive e giustifica il passaggio dalle norme mutuali a quelle dominatore. Come scrive Rockwell, la trilogia ci porta da un totale consenso alla legittimità del caso di Clitennestra nella prima tragedia, a un punto in cui ci si dimentica di sua figlia. Il suo spettro si eclissa e il suo caso è inesistente perché le donne non possiedono i diritti e gli attributi che ella aveva rivendicato. Infatti, se una creatura potente come la regina Clitennestra, nonostante la provocazione che subisce con l'assassinio della figlia Ifigenia, non ha il diritto di vendicarsi, quale donna potrà averlo? Grazie alla lezione di ciò che capitò, nonostante la sua giusta causa, a questa donna arrogante, a tutte le donne viene impedito anche soltanto di contemplare l'idea di gesti di ribellione. Inoltre, il ruolo di Atena in questo dramma normativo, come dice la Rockwell, è un capolavoro di diplomazia culturale nel corso di un mutamento istituzionale. È importantissimo vedere un personaggio illustre della parte sconfitta accettare il nuovo potere. Se Atena, discendente diretta della dea e divinità patrona della città di Atene, si dichiara a favore della supremazia maschile, il passaggio a un dominio dell'uomo dovrà essere accettato da ogni ateniese, maschio o femmina. E lo stesso vale per il cambiamento da ciò che un tempo era un sistema di proprietà comunitario o gestito dal clan, in cui la discendenza era matrilineare, a un sistema di possesso privato della proprietà e delle donne da parte dell'uomo. Come scrive la Rockwell, se il primo processo al nuovo tribunale per gli omicidi prova che il matricidio non è un crimine blasfemo, visto che il rapporto matrilineare non esiste, quale argomento migliore addurre per una discendenza esclusivamente patrilineare? Nell'Orestea, tutti gli ateniesi potevano vedere come persino le antiche furie oparche alla fine desistessero. Si era istituito l'ordinamento a dominio maschile. Le nuove norme avevano sostituito le vecchie e il loro furore non serviva a nulla. Completamente sconfitte, si ritirano in caverne sotto l'acropoli, poiché Atena le persuade a rimanere ad Atene, dopo aver dato il voto decisivo, avendo ribadito il notevole argomento che uccidere la madre non è uno spargimento di sangue familiare. Evidentemente sottomesse ora le erinni accettano di evocare i loro antichi poteri, i poteri della dea, e promettono al servizio di Atena di aiutare a proteggere questa città su cui regnano Zeus onnipotente e Ares, che è il dio della guerra. Come ultime vestigia di un potere femminile dei tempi preolimpici saranno le furie a tessere il destino di uomini e donne, a determinare quando per i mortali verrà il momento di nascere e morire. Come la madre Kali della mitologia indù, scrive sempre la Rockwell, la donna dà la vita e la morte. Ma ormai queste ultime rappresentanti degli antichi poteri della donna sono relegate sottoterra, figure minori, sostanzialmente marginali, di un pantheon di nuovi dei dominato dal maschio. L'Orestea era concepita per influenzare e alterare l'idea di realtà della gente. È sorprendente che ciò fosse ancora necessario nel V secolo avanti Cristo, quasi 1000 anni dopo che gli Achei presero il controllo di Atene. Ancor più sorprendente è come il coro stesso, parlando per le Eumenidi, riassuma ciò di cui in realtà tratta l'Orestea. Io patire quest'onta, io mente del passato, venire relegata sottoterra, reietta qual sudiciume. Sebbene al tempo di Eschilo, questa mente del passato, che serba i ricordi evanescenti di un'epoca lontana, non fosse ancora stata del tutto distrutta, era ormai possibile in una grande occasione cerimoniale proclamare pubblicamente che i torti dell'uomo contro la donna, persino l'uccisione di una figlia da parte del padre, dovevano semplicemente venire dimenticati. La mente della gente si era già trasformata così profondamente che ormai si poteva affermare che in realtà madre e prole non sono parenti. La matrilinearità non ha quel fondamento reale che al contrario solo la patrilinearità possiede. Oltre 2000 anni più tardi, alcuni giganti della scienza occidentale continuavano a spiegare il dominio maschile, affermando che le donne non sono nient'altro che incubatrici per lo sperma maschile. In virtù della prova scientifica che un figlio eredita un ugual numero di geni da ciascuno dei genitori, quest'idea della mancanza di consanguineità tra madre e figlio non ci viene più insegnata nelle scuole e nelle università, ma ancora oggi i nostri più importanti leader religiosi, nonché molti dei più stimati scienziati, continuano a raccontarci che le donne sono creature messe sulla terra da Dio o dalla natura per dare agli uomini dei figli, preferibilmente maschi. Nella nostra epoca continuiamo a identificare i figli con cognomi che indicano esclusivamente la loro parentela col padre. Inoltre, milioni di famiglie occidentali sono tuttora educate socialmente alla patrilinearità in modo normativo, dalle letture della Bibbia, dai pulpiti e nelle loro stesse case. E non stiamo parlando solamente degli innumerevoli generati dal padre della Sacra Bibbia. Quelli a cui ci riferiamo sono tutti i passi biblici in cui, quando si cita un personaggio illustre, lo si fa definendolo figlio di suo padre. Persino il popolo di Israele, come tutta l'umanità e lo stesso Salvatore, il Messia, è definito figlio del Dio Padre. Per noi, dopo migliaia d'anni di incessante indottrinamento, questa è semplicemente la realtà, lo stato delle cose. Ma per la mente che venne scacciata, la mente che adorava la Dea come suprema creatrice di ogni forma di vita e come madre non soltanto dell'umanità ma anche di piante e animali, la realtà deve essere stata tutt'altra cosa. Per una mente educata in una società di questo tipo, in cui la discendenza era matrilineare e le donne come capiclane e sacerdotesse occupavano posizioni socialmente importanti e onorate, la patrilinearità e con essa la progressiva riduzione delle donne a proprietà privata dell'uomo difficilmente sarebbe sembrata naturale. L'impunità di un figlio che uccide la madre sarebbe stata assolutamente al di là della capacità di comprensione di una mente simile, proprio come lo era per le Eumenidi nella tragedia di Eschilo. Altrettanto inconcepibile e blasfema sarebbe stata l'idea che le forze supreme che governano l'universo dovessero venire personificate da divinità armate e vendicative, che non solo lasciano impuniti, ma addirittura in nome della giustizia e della morale ordinano all'uomo atti come l'omicidio, il saccheggio e la rapina. Insomma, questa mente antica era assolutamente inadatta a funzionare col nuovo sistema dominatore. Per un certo periodo forse si riuscì a tenerla a bada con la forza bruta e le minacce, ma a lungo termine avrebbe funzionato solo una completa trasformazione del modo in cui la gente percepiva e analizzava la realtà. Ma come si poteva fare? Come riuscire a trasformare le menti nel modo desiderato? È molto interessante come al giorno d'oggi, alla soglia di un massiccio mutamento della nostra evoluzione culturale, gli scienziati studino il problema della disgregazione dei sistemi nei periodi di massimo squilibrio e della loro sostituzione con sistemi differenti. Per sostituire un'organizzazione sociale mutuale, matrilineare, con una basata sul dominio con la forza, patriarcale, si devono attuare cambiamenti fondamentali nell'informazione. Ritornando all'analisi biologica, ci vorrà un codice replicativo totalmente diverso. E questo nuovo codice dovrà essere impresso nella mente di ogni singolo uomo, donna e bambino, fino a che la loro idea di realtà venga completamente trasformata per adattarsi alle necessità di una società dominatore. In poche pagine è impossibile anche solo iniziare a descrivere un processo che ha continuato per millenni e perdura tuttora nella nostra epoca, il processo per cui la mente umana, a volte brutalmente, a volte in modo sottile, a volte deliberatamente, a volte inconsapevolmente, fu rimodellata nel nuovo tipo di mente, richiesta da questo mutamento drastico della nostra evoluzione culturale. Fu un processo che comportò un'enorme distruzione materiale, che continuò fino in epoca storica. Come possiamo ancora leggere nella Bibbia, gli ebrei, come in seguito anche cristiani e musulmani, rasero al suolo templi, abbatterono boschi sacri e fecero a pezzi idoli pagani. Il processo richiese anche una massiccia distruzione spirituale, che pure proseguì fino in epoca storica. Si bruciavano i libri, si bruciavano e perseguitavano gli eretici, quelli che non concepivano la realtà nel modo prescritto venivano uccisi o convertiti. Direttamente, mediante la coercizione personale, e indirettamente tramite saltuarie dimostrazioni sociali di forza, come le pubbliche inquisizioni ed esecuzioni, venivano scoraggiati i comportamenti, gli atteggiamenti e le percezioni che non si conformavano alle norme del modello dominatore. Questo condizionamento basato sulla paura arrivò a far parte di ogni aspetto della vita quotidiana e influenzò l'educazione dei bambini, le leggi, le scuole, e mediante questi altri strumenti di condizionamento sociale, il tipo di informazione replicativa richiesto per istituire e mantenere una società dominatore si diffuse in tutto il sistema sociale. Per millenni, uno degli strumenti più importanti del condizionamento sociale fu l'educazione spirituale, compiuta dagli antichi sacerdoti, parte integrante del potere statale. Queste caste sacerdotali facevano parte ed erano al servizio delle élite maschili che ormai dappertutto governavano e sfruttavano la gente. I sacerdoti, che avevano diffuso la convinzione che quanto sostenevano era il Verbo divino, la parola di Dio che era stata trasmessa loro magicamente, erano spalleggiati da eserciti, tribunali e boia. Ma il loro sostegno più grande non era temporale, bensì spirituale. Le loro armi più potenti erano le storie sacre, i rituali e gli editti sacerdotali, mediante i quali essi inculcarono sistematicamente nelle menti della gente la paura di divinità terribili, remote e imperscrutabili, perché bisognava insegnare alla gente a obbedire alle divinità e ai loro rappresentanti terreni, che ormai esercitavano arbitrariamente il potere di vita e di morte nei modi più crudeli, ingiusti e capricciosi che tuttora vengono spesso giustificati come volontà di Dio. Ancora oggi la gente continua a imparare dalle storie sacre ciò che è bene e ciò che è male, quello che deve essere imitato o aborrito, e quanto dovrebbe essere accettato come ordine divino non solo per sé, ma per tutti gli altri. Tramite cerimonie e rituali la gente prende parte a queste storie. Il risultato è che i valori in esse espressi penetrano nei più profondi recessi della mente, dove persino al giorno d'oggi vengono custoditi come verità sacre e immutabili. Il tipo di controllo centralizzato e omogeneo che i sacerdoti delle città-stato dell'antichità esercitavano su queste storie sacre è difficile da concepire nella nostra epoca in cui la gente, ammesso che la religione, la censura di Stato e i mass media non lo impediscano, dispone di una gran varietà di punti di vista. Nell'antichità ciò che si poteva leggere o nel caso delle masse illetterate ascoltare era molto più limitato, ed era in prevalenza espressione di idee omologate ufficialmente. Inoltre era pressoché impossibile la replicazione di una qualsiasi idea che potesse scalzare l'ideologia approvata dall'autorità, poiché anche se ci fosse riuscito di eludere in qualche modo la censura teocratica, una tale eresia sarebbe stata punita con terribili torture e con la morte. Rimanevano, allora come oggi, i ricordi popolari di antichi miti, rituali, poesie e canzoni. Ma gradualmente, col passare delle generazioni, essi vennero alterati e distorti, poiché i sacerdoti, i compositori di odi e canzoni, i poeti e gli scribi li trasformarono in ciò che secondo loro avrebbe incontrato il favore dei propri sovrani, coloro che li pagavano. Senza dubbio, Molti di questi uomini credevano che il proprio operato fosse la volontà degli dèi. Si sentivano divinamente ispirati. Ma che fosse compiuta in nome di dèi, vescovi o re, oppure per la fede, l'ambizione o la paura, quest'operazione di modellare e rimodellare la letteratura normativa scritta e orale non era semplicemente una conseguenza del cambiamento sociale, era parte integrante del processo di mutamento della norma, il processo per cui una società dominata dal maschio, violenta e gerarchica, cominciò a essere considerata non solo normale, ma anche giusta. Nel suo romanzo 1984, George Orwell ha previsto un'epoca in cui un ministro della verità avrebbe rimodellato ogni idea e riscritto tutti i libri per adattarli alle esigenze degli uomini al potere. Ma la cosa tremenda è che non si tratta di un'eventualità futura, è già successo molto tempo fa, quasi ovunque nel mondo antico. Nel Medio Oriente, dapprima in Mesopotamia, Canaan e successivamente nei regni ebraici di Giudea e Israele furono per lo più i sacerdoti a rielaborare le antiche storie e a riscrivere i codici della legge. Come nell'antica Europa, questo processo iniziò con le prime invasioni androcratiche e proseguì per millenni, mentre l'Egitto, la Sumeria e tutti i territori della Mezzaluna fertile venivano progressivamente trasformati in società a dominio maschile. Come ormai ampiamente documentato dai ricercatori biblici, questo processo di rimitizzazione era in atto ancora nel 400 a.C., periodo in cui, secondo gli studiosi, i sacerdoti ebrei riscrissero per l'ultima volta la Bibbia ebraica. Il compendio definitivo in un unico libro, la prima metà della Bibbia, dei miti e delle leggi che hanno così profondamente influenzato le nostre menti di occidentali, avvenne circa un centinaio d'anni dopo che Eschilo in Grecia scrisse l'Orestea. A quell'epoca, in Palestina, la mitologia biblica su cui si basano ancora giudaismo, cristianesimo e islam, fu nuovamente vagliata, modificata e ampliata da un gruppo di sacerdoti ebrei che gli studiosi biblici chiamano Priestly School, la scuola sacerdotale. Questa definizione serviva a distinguerli dai precedenti rimitizzatori o scuola Elohim che scrissero nella parte settentrionale di Israele o scuola di Yahweh nel regno meridionale di Giudea. Questi gruppi editoriali, Elohim e Yahweh, avevano in precedenza rivisitato miti babilonesi e cananei e anche la storia ebraica per adattarli ai loro scopi. Adesso si era messo al lavoro su questi antichi testi eterogenei il gruppo P, Priestly School, scuola sacerdotale, per produrre un nuovo pacchetto sacro. Il suo obiettivo, per citare gli studiosi che hanno chiosato la famosa Bibbia di Dartmouth, era di tradurre in realtà il progetto di uno Stato teocratico, dominato da Dio. Questi biblisti aggiungono che, anche se non si sa con certezza se questa rimitizzazione finale a scopi politici implicasse una congiura di idee, sicuramente ne comportava una di azioni. Essi fusero il materiale Elohim e il materiale Yahweh e ne inserirono una gran quantità conosciuta come elemento priestly, sacerdotale. Per di più, venne omesso molto di ciò che prima era ritenuto sacro, per esempio i Vangeli apocrifi. Insomma, questa rimitizzazione definitiva di quello che è giunto fino a noi come Antico Testamento, cioè la Bibbia ebraica, è un lavoro di rappezzatura. Ciò spiega perché, nonostante i tentativi di dare un'impressione di unità, nella Bibbia ci sono tante contraddizioni e discordanze interne. Un esempio molto noto sono i due racconti di come Dio ha creato gli esseri umani nel primo capitolo di Genesi. Il primo racconto dice che la donna e l'uomo erano creazioni divine simultanee, il secondo, più elaborato, racconta che Eva fu creata da una costola di Adamo dopo un ripensamento. Molte di queste discrepanze sono indizi evidenti del conflitto ancora in atto tra l'antica realtà, ancora presente nella cultura popolare, e le nuove verità che la classe sacerdotale al potere cercava di imporre. A volte lo scontro tra vecchie e nuove norme è palese, come nel racconto della prima coppia umana, in cui si contrappongono concezioni ugualitarie e maschiliste. Ma più spesso il conflitto tra i due tipi di società è più sottile. Un esempio estremamente calzante è il modo in cui viene considerato il serpente nella Bibbia. In effetti, Il ruolo svolto dal serpente nella drammatica cacciata dal paradiso terrestre acquista un senso solo nel contesto della realtà precedente, in cui esso era uno dei simboli principali della dea. Per tutto il Neolitico, negli scavi archeologici, il serpente è uno dei motivi più diffusi. Il serpente e il suo derivato astratto, la spirale, sono motivi dominanti di tutta l'arte dell'antica Europa, scrive Maria Gimbutas. La studiosa fa anche notare che l'associazione del serpente alla dea sopravvisse fino in epoca storica, non solo nella sua forma originale come a Creta, ma in una varietà di miti posteriori, greci e romani, come quelli di Atena, Era, Demetra, Atargate e della dea Siria. Lo stesso vale per il Medio Oriente e gran parte dell'Oriente. In Mesopotamia una dea rinvenuta in un sito archeologico molto antico ha un serpente attorcigliato intorno alla gola, proprio come una figura quasi identica dell'India del 100 a.C. Nella mitologia dell'antico Egitto, la dea cobra Uazit è la prima creatrice del mondo. La dea di Canaan Ashtoret o Astarte viene rappresentata con un serpente. In un bassorilievo sumero del 2500 a.C., detto la dea dell'albero della vita, proprio a fianco di due immagini della dea si trova una coppia di serpenti. Chiaramente, il serpente era troppo importante, sacro e universalmente diffuso come simbolo della potenza della dea per poter essere ignorato. Se si voleva rimodellare la vecchia mente per adattarla alle esigenze del nuovo sistema, il serpente doveva diventare uno degli emblemi della nuova classe sovrana, o in alternativa bisognava annullarlo, distorcerlo, screditarlo. Ecco dunque che nella mitologia greca il serpente a fianco di Zeus Olimpio diventa un simbolo del nuovo potere. Analogamente c'è un serpente sullo scudo di Atena che dopo una metamorfosi non è più solo la dea della saggezza ma anche della guerra. Si teneva addirittura un serpente vivo nell'Eretteo, un edificio nei pressi del tempio di Atena sull'Acropoli. Questa appropriazione del serpente da parte dei dominatori indoeuropei della Grecia serviva a fini politici estremamente pratici. Aiutava a legittimare il potere dei nuovi sovrani. Grazie agli effetti disorientanti causati dal fatto di trovare un potente simbolo che un tempo apparteneva alla dea in mani estranee, serviva anche a ricordare continuamente la sconfitta della dea a opera degli dei conquistatori della violenza e della guerra. Anche i molti casi di uccisione di serpenti che incontriamo nella leggenda greca simboleggiano sempre la sconfitta del vecchio ordine. Zeus trucida il serpente Sifone, Apollo uccide il serpente Pitone ed Ercola elimina Ladone, guardiano del sacro albero da frutta della dea Era, che si dice le fosse stato regalato dalla dea Gaia al tempo del suo matrimonio con Zeus. Similmente, nella mezzaluna fertile, troviamo il mito di Baal, che ora è diventato contemporaneamente dio della tempesta e fratello consorte della dea, che sottomette il serpente Lotan o Loutan. Non a caso Lat in lingua cananita significa dea. E in Anatolia c'è una storia sull'uccisione del drago Iluyankas a opera del dio indoeuropeo degli Ittiti. Nel mito ebraico, come possiamo ancora leggere in Giobbe 41.1 e nel Salmo 74, Geova uccide il serpente Leviatano, che ora viene rappresentato come un terribile mostro marino dalle molte teste. Ma allo stesso tempo leggiamo nella Bibbia di Dartmouth che il simbolo più sacro della religione ebraica, l'Arca dell'Alleanza, in origine probabilmente non conteneva i 10 comandamenti. In quest'arca, che ancora oggi svolge un ruolo centrale nei riti ebraici, si trovava un serpente di bronzo. Si tratta del serpente bronzo di cui parla Re 2.18, che, scrive Joseph Campbell, veniva adorato proprio nel Tempio di Gerusalemme, insieme a un'immagine della sua sposa, la potente dea, ivi conosciuta col nome di Asherah. Sempre nella Bibbia leggiamo che questo serpente bronzeo, che si dice fosse stato fatto nel deserto da Mosè in persona per provare la potenza di Geova, non fu tolto dal Tempio e distrutto prima del 700 a.C., durante le grandi persecuzioni religiose del re Ezechiele. Ma la testimonianza più stupefacente del potere duraturo del serpente ci viene dal racconto della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso. È infatti il serpente che suggerisce alla donna di disobbedire a Geova e di mangiare lei stessa dall'albero della conoscenza, consiglio che ancora oggi si dice abbia destinato l'umanità a una punizione eterna. Sono stati fatti molti tentativi da parte dei teologi di interpretare la storia della cacciata dal paradiso in modi che non spiegano la barbarie, la crudeltà e l'insensibilità come una conseguenza inevitabile del peccato originale. Sicuramente la reinterpretazione del più famoso dei miti religiosi secondo un simbolismo nuovo più umano fa parte integrante della trasformazione ideologica che deve accompagnare il mutamento sociale, economico e tecnologico da un sistema dominatore a uno mutuale. Ma è anche essenziale che comprendiamo chiaramente il significato sociale e ideologico di questa importante storia all'interno del suo contesto storico. In effetti, il racconto di Eva, che si fa consigliare dal serpente, ha un senso soltanto da questa prospettiva storica. Il fatto che il serpente, un antico simbolo oracolare o profetico della dea, consiglia a Eva, la donna archetipica, di disobbedire agli ordini di un dio maschile non è sicuramente un caso. Né è un caso che Eva segua in effetti il suggerimento del serpente, trasgredendo agli ordini di Geova, mangia dal sacro albero della conoscenza. Come l'albero della vita, anche l'albero della conoscenza era, nella precedente mitologia, un simbolo associato alla dea. Inoltre, nell'antica realtà sociale e mitica, come avveniva ancora con la Pizia in Grecia e successivamente con la Sibilla a Roma, la saggezza e la rivelazione divina si manifestavano attraverso una sacerdotessa. Gli ordini di questo potente dio parvenu, ultimo arrivato, Geova, per cui Eva non poteva cibarsi da un albero sacro, quello della conoscenza e della saggezza divina o della vita, sarebbero stati non solo innaturali, secondo il punto di vista precedente, ma anche blasfemi. Boschetti d'alberi sacri erano parte integrante della vecchia religione. Lo stesso vale per i riti volti a indurre negli adoranti uno stato di coscienza ricettivo alle rivelazioni della dea, riti officiati dalle donne in quanto sacerdotesse della dea. Insomma, nell'ambito della vecchia realtà matrifocale, Geova non avrebbe avuto il diritto di dare simili ordini. Ma visto che erano stati dati, non ci si poteva aspettare che Eva o il serpente, in quanto rappresentanti della dea, li avrebbero osservati. Ma mentre questa parte del racconto della cacciata è comprensibile solo in funzione della realtà precedente, il suo seguito ha un senso solo alla luce delle politiche di potere per l'imposizione di una società di tipo dominatore maschile. Come la successiva trasformazione del toro cornuto, un altro antico simbolo del culto della dea, nel diavolo con corna e zoccoli dell'iconografia cristiana. Il mutamento dell'antico simbolo di saggezza oracolare in un simbolo del male satanico e il ritenere la donna responsabile di tutte le disgrazie dell'umanità furono espedienti politici. Erano deliberati capovolgimenti della precedente concezione della realtà. Dirette al primo pubblico della Bibbia, il popolo di Canaan, che probabilmente si ricordava ancora le terribili punizioni che gli uomini che portavano con sé gli dei della guerra e del tuono avevano inflitto ai loro antenati, le orribili conseguenze della disobbedienza di Eva agli ordini di Geova erano più che una semplice allegoria sulla colpevolezza dell'umanità. Erano un chiaro monito a evitare il culto della dea che ancora resisteva. La colpa, tra virgolette, di Eva, quando si rifiutò di ubbidire a Geova e s'azzardò ad attingere personalmente alla fonte della conoscenza, era in sostanza il rifiuto di rinunciare a quel culto. E siccome fu Eva la prima donna, il simbolo della donna, a rimanere legata all'antica fede più di Adamo, che si limitò a seguire il suo esempio, la punizione per lei doveva essere più tremenda. Da quel momento si sarebbe dovuta sottomettere in tutto e per tutto. Le sue sofferenze si sarebbero moltiplicate e con esse la sua prole, il numero di figli che avrebbe generato, e per l'eternità sarebbe stata condannata a essere dominata da questo dio vendicativo e dal suo rappresentante terreno, l'uomo. A parte questo, lo svilimento del serpente e l'associazione della donna al male erano un modo per screditare la dea. E per la verità, l'esempio più rivelatore di quanto la Bibbia contribuì a istituire e mantenere una realtà di dominio maschile androcentrico, di gerarchia e di guerra, non è dato da come essa descrisse il serpente. Ancor più illuminante e unico, come vedremo nei capitoli successivi, è il modo in cui gli uomini che scrissero la Bibbia si occuparono della dea stessa.